Allora, io do il benvenuto a tutti e naturalmente come centro di documentazione sapete che si presentano sempre tanti libri, facciamo una scelta rigorosa di letture che presentiamo all'interno della nostra rivista notiziario del centro documentazione e poi facciamo anche iniziative come quella di oggi dove si presenta diciamo in maniera più articolata, insomma più discussa, un libro che ci interessa. All'interno di questo programma abbiamo accolto volentieri l'iniziativa di presentare il libro di Beniamino De Idda, se non altro per la stima che abbiamo sia di Beniamino De Idda sia per Bruno Borghi, di cui abbiamo pubblicato già delle cose a partire dagli anni 70. Vi volevo ricordare a questo proposito uno dei primi opuscoli stampati dal centro, Magistratura e potere dei padroni, che è del 75, sì. E poi una cosa che è stata, appunto, che Beniamino mi ricordava, questa del primo numero di Scuola Documenti, dove ci sono due interviste sia a Beniamino De Idda sia a Bruno Borghi sulla scuola, dopo l'esperienza diciamo di Barbiana, una discussione insomma per ripartire da lì. Ma per tornare anche a cose più recenti, noi avevamo fatto anche nel 2006, dopo la morte appunto di Bruno Borghi, un notiziario, questo qui, se volete insomma sono a disposizione, dove c'è un intervento, un ricordo proprio di Beniamino De Idda su Bruno Borghi fatto a Bagnarripoli proprio nel novembre del 2006. Nello stesso tempo, sempre su Bruno Borghi, abbiamo deciso di pubblicare un lavoro all'interno della collana I quaderni dell'Italia antimoderata, che è una collana ideata da Attilio Mangano e Antonio Schina, e questo lavoro è stato portato avanti proprio da Antonio Schina. Bruno Borghi è un testo che ricostruisce un po' tutta la storia e dentro la storia insomma del periodo in cui Bruno ha vissuto, per cui ecco ci è sembrato interessante accogliere proprio la presentazione di un altro lavoro che Beniamino De Idda insomma ha portato avanti negli anni. Più volte ha ripetuto nelle varie interviste che parlare con poche parole diciamo di Bruno Borghi era un po' non rispettare veramente quello che è stato, e quindi questo lavoro senz'altro, questo libro che è uscito ora sicuramente Basta un uomo, senz'altro va a completare questo quadro di un'esperienza di una persona che ha lavorato moltissimo e quindi oggi volentieri ne discutiamo. Discutono con noi, allora, a parte l'autore appunto Beniamino De Idda, abbiamo Alessandro Santoro, scusate, Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge, poi Mauro Matteucci, che è stato nella sua vita un insegnante, lo è tuttora, insegnante a vita, e si occupa di alfabetizzazione degli stranieri nella comunità qui di Vicofaro. E poi abbiamo Giovanni Capecchi, che conoscerete come docente di letteratura italiana nell'Università di Perugia per stranieri, e anche attualmente presidente dell'UNISER, dell'Università qui di Pistoia. Allora, io so che inizia il suo discorso, il suo commento al libro, insomma, Mauro Matteucci, e poi a seguire gli altri. Allora, prego di stare, diciamo, nei tempi abbastanza contenuti, in modo da poter lasciare poi anche la possibilità di discutere agli altri. Benissimo, benissimo. Grazie. Allora, non aveva accesso. Suo nonno, no.